Dal 2014 nel nuovo fisco vanno alle famiglie i benefici della lotta all'evasione. A Palermo blitz in corso delle Fiamme Gialle e online arrivano i redditi dei ministri, il più paperone Corrado Passera. L'Europa tira un sospiro di sollievo con l'accordo sulla Grecia, Barroso chiusa la porta al fallimento. Solo un fraintendimento, si difendono al Policlinico di Roma, ma i vertici ammettono anche 7 giorni di attesa prima del ricovero in reparto. La RAI fa un passo indietro, cambieremo la norma sulla maternità, poco fa una nota dell'azienda. Abbiamo definitivamente chiuso la porta al fallimento della Grecia. Buona giornata dalla redazione, buona giornata da Anna Migliorati. Le parole queste, questa mattina da Bruxelles, del presidente della Commissione europea, José Manuel Barroso, all'indomani dell'accordo raggiunto nella notte per il prestito ad Atene. Tra poco ne parliamo ampiamente, prima però cominciamo dall'Italia, perché intanto il governo pensa d'ora ad una nuova fase. Nel giorno in cui sono stati pubblicati online i redditi dei ministri del governo Monti, arrivano anche le indiscrezioni sul decreto fiscale che il governo dovrebbe esaminare venerdì, e si parla di riduzione delle imposte. Allora cominciamo da qui con Elisabetta Fiorito. Sì, buongiorno. Al via le misure della semplificazione fiscale contenute in un decreto legge nel pacchetto anti-evasione, la lista di chi non emette lo scontrino, ma anche controlli potenziati sulle onlus, multe fino al 40% per l'export di capitali, possibile rateazione flessibile dei debiti tributari, chiusura d'ufficio per partita IVA inattive. A partire dal 2012 e dal 2013 le risorse derivate dalla lotta all'evasione fiscale saranno destinate alle fasce più deboli con familiari a carico. L'Agenzia delle Entrate elaborerà le liste selettive di evasori ripetutamente segnalate per violazione dell'obbligo di emissione di ricevuta o scontrino fiscale. Per combattere i giochi illegali e l'evasione nel settore delle scommesse, gli ispettori potranno entrare in una sala e giocare a fini di controllo. Riguardo alle aziende, i beni strumentali pignorati resteranno affidati in custodia ai titolari dei debitori e non potranno essere messi all'asta per 30 giorni. Prevista la rateazione flessibile dei debiti tributari, oltre a rate costanti il debitore può chiedere quelle variabili di importo crescente per ciascun anno. Per contrastare le frodi in materia di IVA, l'Agenzia delle Entrate rende disponibili i dati per verificare la validità del numero di partita IVA. E grazie. Sulla Chiesa non rientra nella bozza per il momento. È tutto a voi studio. E grazie ad Elisabetta Fiorito. Come avete sentito, sono moltissimi i temi su cui si sta lavorando, vedremo nei prossimi giorni. Intanto però sono stati pubblicati questa mattina anche i redditi dei ministri. Una ventata di trasparenza, come chiesto da Monti, arriva sul governo. Tra i più attesi alla prova dei redditi, il superministro Corrado Passera, nella vita precedente banchiere di peso in qualità di numero uno di Intesa San Paolo. 3.529.000 euro il reddito dichiarato nel 2011. Da ministro il compenso scenderà a soli, si fa per dire, 220.000 euro circa. Passera ha anche partecipazioni per 5 milioni di euro nella Lario Hotels, azioni per 1,6 milioni nella Immobiliare Venezia e depositi per 8,8 milioni, derivati in gran parte dalla vendita delle azioni di Intesa. Al secondo posto momentaneo, visto che il sito del governo è andato in tilt per i troppi accessi, Filippo Patroni Griffi, ministro della pubblica amministrazione, un passato da Gran Commis dello Stato, 504.000 euro i compensi percepiti nel 2010. Per il ministro degli esteri Giulio Terzi, 338.000 euro sempre nel 2010, somma del reddito base e delle indennità all'estero in qualità di ambasciatore a Washington. Anche per lui lo stipendio da ministro scenderà a 214.000 euro. 314.000 euro i redditi del ministro della difesa Giampaolo Di Paola nel 2011, compensi che sfiorano i 200.000 euro invece per i ministri dell'interno Cancellieri e dell'istruzione Profumo. Il più povero nella compagine del governo Monti è il ministro Riccardi, che nel 2011 ha denunciato compensi per 81.000 euro. Alessio Maurizi, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E sul fronte della lotta all'evasione fiscale questa mattina è scattato intanto un nuovo blitz, questa volta a Palermo. Decine di uomini della finanza e della polizia municipale stanno controllando da questa mattina esercizi commerciali nella zona del Palazzo di Giustizia. A Radio 24 all'evasione fiscale dedichiamo ogni giorno la nostra rubrica, e allora sentiamola anche oggi. Il paese sommerso. Il paese sommerso. Storie di ordinaria evasione fiscale. Si chiamano evasori totali e c'è un motivo: non esistono, non hanno un numero di telefono, cambiano residenza in continuazione, aprono e chiudono aziende dalla sera alla mattina, ma soprattutto sono refrattari al pagamento di qualsiasi imposta. Nel 2011 sono stati 7.500 quelli beccati dalla Guardia di Finanza. A scorrere i casi più curiosi da nord a sud si resta allibiti. C'è il ristoratore veneziano che emetteva regolarmente scontrini e ricevute fiscali. Tutto regolare, tranne il fatto che poi distruggeva la pila di carta che il registratore di cassa aveva documentato. Vendeva invece su internet, nei siti d'aste, la titolare di un negozio di informatica di Prato. Molto moderno, chiuso il negozio, aveva trasferito tutto sul web, non dichiarando però niente al fisco. Più sfacciati, i due proprietari di un autosalone ad Alessandria. Non hanno mai presentato negli ultimi anni la dichiarazione dei redditi. A Firenze, invece, i finanzieri, controllando un fornaio del centro, hanno scoperto che l'unico atto che aveva dichiarato era il contratto d'affitto. Infine a Latina, un imprenditore gestiva 6 aziende diverse. Peccato che non dichiarasse nulla. Aveva mancato di pagare IRAP e IRES per 6,5 milioni di euro e IVA per 1,2 milioni. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E voltiamo pagina, veniamo dunque alla Grecia. Accordo raggiunto, dicevamo, nella notte. Il rischio fallimento è scongiurato, ha ricordato il presidente della Commissione europea Barroso, ma questo a che prezzo? Io saluto il collega del Sole 24 Ore, Vittorio Darold. Buongiorno. Buongiorno a voi. Dicevamo, a che prezzo? Un paese che ha perso la sovranità o una nuova via per l'Europa, quella che è stata seguita questa notte? Ma sicuramente ci sono degli elementi interessanti nell'appunto salvataggio. Ci sono un segregated account, un conto, un fondo vincolato, dove gli aiuti andranno direttamente al paese, ma con la condizione che dovranno servire a pagare il servizio del debito. Quindi in qualche modo è un aiuto, ma assolutamente vincolato al pagamento. Quindi non si potranno usare questi fondi per pagare pensioni o stipendi. Poi viene chiesto ad Atene che questa norma venga inserita, una norma addirittura nella Costituzione, qualcosa di simile a quello che è già avvenuto in Germania, dove appunto si deve dire che questo pagamento deve sempre privilegiare innanzitutto il pagamento dei debiti. Quindi non solo un fondo, ma poi dovrà essere questa norma inserita nella Costituzione. In qualche modo quindi si cautelano tutti nei confronti delle prossime elezioni, di modo che il paese non abbia sorprese, non ci sia un nuovo governo, perché lo ricordiamo, ad aprile ci sarà un voto anticipato dove, ahimè, i due partiti maggioritari che oggi sostengono il governo tecnico Papadimos, quello di Neodemocrazia e il PASOK socialista, che oggi hanno più del 60% insieme, oggi sono appena, secondo i sondaggi, a un terzo, quindi si paventa una situazione molto più confusa. E quindi evitare il rischio che si torni ancora al punto di partenza. Allora sentiamo però anche perché siamo dovuti arrivare a tutto questo, perché abbiamo dovuto salvare la Grecia, quali sono state le tappe in questa scheda. Nell'ottobre del 2009 una folla festante di suoi sostenitori accoglie la vittoria e poi l'arrivo in Parlamento di George Papandreou, socialista, vincitore delle elezioni in Grecia, figlio e nipote di ex primi ministri. L'attore però di pessime notizie. Il precedente esecutivo, quello del conservatore Kostas Karamanlis, ha truccato i conti. La previsione di rapporto tra deficit e PIL è indicata per quell'anno al 3,7%. Papandreou la ritocca, per così dire, stimando un 12,7% alla fine dell'anno e al 15,5%. A dicembre del 2009 i tagli di rating, mentre da Europa e Fondo Monetario Internazionale inizia a filtrare l'idea di dover aiutare Atene. Bisogna arrivare al maggio del 2010, il momento nel quale, al termine di un difficile negoziato, la Grecia ottiene 110 miliardi in cambio di promesse di un piano di austerity da 28 e privatizzazioni per 50. Non basta, il bilancio greco è irrimediabilmente compromesso, mentre i leader europei mettono in scena un balletto di dichiarazioni, spesso a mercati aperti, spesso in contraddizione tra loro. E se c'è una cosa che ai mercati non piace è l'incertezza. Alla piazza quello che non piace invece è l'austerity, i tagli agli stipendi pubblici, la stretta fiscale. È sempre il maggio del 2010 quando, in una giornata di guerriglia, una Molotov viene lanciata sulla filiale di una banca. L'edificio diventa una trappola, 3 persone perdono la vita. Le proteste costellano tutto questo percorso accidentato, connotano l'estate dell'anno scorso, quando ci si rende conto che Atene non ce la fa, che c'è bisogno di altre risorse, fanno da cornice ai momenti nei quali Papandreou decide di dimettersi, lasciando la guida del paese all'ex banchiere centrale Lucas Papademos. Sono il corollario anche delle decisioni di queste ore. Simone Spezia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Così dunque il fronte greco, ma è stata una vittoria per l'Europa l'accordo della notte. Andiamo anche a Bruxelles, dove c'è Adriana Cerretelli. Buongiorno, tra l'altro. Buongiorno. Poco tempo, perché sta anche per cominciare a parlare il Premier Monti, giusto? Sì, sì, sì. Dicevamo, una vittoria per l'Europa l'accordo della notte, secondo te? Ma sicuramente è una vittoria, nel senso che si è chiusa una falla, o perlomeno si sono approntati i mezzi per chiudere questa falla. Dopodiché il futuro resta un punto interrogativo, nel senso che diciamo, questa vicenda greca sta, per così dire, divorando l'Europa. E mi spiego, in sé la vicenda greca è una vicenda che avrebbe potuto essere addirittura marginale, come immagino avrete detto mille volte. L'economia della Grecia rappresenta il 2% del PIL dell'Eurozona e il 3% del debito totale, quello greco, quindi sono problemi assolutamente gestibili, solo che sono stati trascinati, mal gestiti, e in questo modo hanno contagiato l'intera Eurozona, divenendo allora, un problema politico. È diventato un problema politico, ma anche un problema economico-finanziario per gli altri partner. E quindi a questo punto, diciamo, il salvataggio della Grecia, questo secondo salvataggio, deve assolutamente funzionare, perché se non dovesse, e purtroppo i rischi ci sono che non funzioni, perché c'è, diciamo, questa recessione che si continua ad avvitare su se stessa e che quindi continua a aggravare la situazione finanziaria della Grecia. Nella stessa trattativa di ieri ci sono stati questi famosi 6 miliardi da trovare, 6 miliardi in più. Perché? Perché appunto la recessione aveva fatto lievitare, diciamo, meccanicamente il debito. Dicevo, la Grecia, il problema va risolto, perché altrimenti una uscita della Grecia o un default della Grecia non rimarrebbe un episodio isolato, avrebbe di nuovo degli effetti contagio tali per cui potrebbe investire gli altri paesi. E tornare di nuovo al punto di prima. È interesse dell'Europa e della Germania per prima a fare di tutto per non esasperare, diciamo, questa cura di sacrifici e di rigore e non creare dei sentimenti, come purtroppo stanno nascendo in Europa, antitedeschi, che sarebbero appunto la via maestra per distruggere l'Europa. E per tornare ad un punto dove non vorremmo essere di nuovo, grazie ad Adriana Cerretelli. Allora, secca la domanda a Vittorio Darold, che è ancora con noi. Davvero possiamo pensare ad una Grecia che dal 2014 pensa alla crescita? Sì, è l'unica ricetta per poter uscire da questa situazione, questo circolo vizioso, perché la Grecia nel 2011 ha avuto una recessione del 7%, è il quinto anno di recessione, una situazione ingestibile dal punto di vista macroeconomico. Naturalmente questi piani di aiuto daranno sollievo, poi non ricordiamoci che questo PSI, questo coinvolgimento dei privati, coinvolge anche le banche greche, che perderanno tra i 40 e i 50 miliardi. Quindi l'unica anche lì via è ripensare ad un più, perché altrimenti non se ne esce. Assolutamente, bisogna trovare una formula per fare sì che si trovi nel mondo un made in Greece. Grazie anche a Vittorio Darold, dicevamo, in attesa intanto della conferenza stampa del Premier Monti. Tra poco volteremo ancora pagina, parleremo anche degli ospedali romani. Prima di chiudere però un'altra questione politica, che invece è tutta italiana, perché Silvio Berlusconi ha riunito ieri sera il partito in vista delle amministrative nella villa di Gernetto. Ai suoi ha riservato ieri sera una sorpresa, un nuovo inno per il PDL per sostituire Meno male che Silvio c'è. La nuova colonna sonora è stata scritta dalla deputata Rosaria Rossi, ma in sorgere sono ora gli articoli 31, secondo cui il testo del nuovo inno del PDL presenta eccessive somiglianze con un'altra canzone, Gente che spera, questa. Noi, gente che spera, cercando qualcosa di più, in fondo alla sera, la sera, la sera, la sera, noi. Le notizie di oggi di GR24: riduzione delle tasse dal 2014 nel nuovo fisco vanno alle famiglie, i benefici della lotta all'evasione. A Palermo blitz in corso e online arrivano i redditi dei ministri. Il più paperone Corrado Passera, 3,5 milioni di euro. L'Europa tira un sospiro di sollievo con l'accordo sulla Grecia. Barroso chiusa la porta al fallimento. Pescante lascia il CIO, carica incompatibile, dice, dopo la rinuncia alla candidatura di Roma. E noi ricominciamo però da un'altra notizia dell'ultima ora, perché la RAI ha annunciato che farà un passo indietro dopo le polemiche sulle collaboratrici e la maternità. Il direttore generale della RAI, Lorenza Lei, non ha alcuna difficoltà a togliere la contestata clausola dai contratti, è una nota poco fa dell'azienda. Per una diversa formulazione si legge che non urti la suscettibilità, fatta salva la norma vigente. Così Lorenza Lei, staremo a vedere quali saranno le reazioni. E restiamo però a Roma, perché la presidente della Regione Lazio, Renata Polverini, ha convocato il direttore generale del Policlinico Umberto I di Roma. Nel pomeriggio incontrerà anche in regione i direttori generali degli altri ospedali romani dopo le bufere. E allora per noi al Policlinico è tornata questa mattina Alessandra Schepisi. Sì, buongiorno dal Policlinico Umberto I. Mi trovo davanti all'entrata del pronto soccorso romano, all'interno del quale c'è la cosiddetta piazzetta, il luogo dove i pazienti aspettano di andare in reparto dopo l'assegnazione del codice. Oggi sembra una giornata relativamente tranquilla, si contano 6 barelle, i tempi di attesa sembrano più ridotti, si parla però sempre di alcune ore, ovviamente non per i codici rossi che questa mattina comunque non ci sono stati, ma di solito è il fine settimana il momento più critico, quando i pazienti possono arrivare anche a 20-30 in una stanza che al massimo può contenerne 8, quindi in una situazione di totale promiscuità. E del resto è proprio lo stesso direttore del Dipartimento di Emergenze e Accettazione del Policlinico, Claudio Modini, a dire che il problema della mancanza di posti per il ricovero non è una novità. Allora sentiamo la sua voce. La paziente non era in coma, un paziente in coma non può essere fermato, un paziente da 3 giorni. Diciamo che noi, come tutti i valori medi, noi abbiamo in attesa di ricovero dei picchi che possono arrivare anche a 7-8 giorni a 20 minuti. Diciamo abbiamo delle difficoltà, come tutti i grandi ospedali, nel trovare posti letto di ricovero. Ecco, tutto questo faceva riferimento anche Modini dopo l'episodio della donna tenuta in coma, tenuta legata alla barella per 4 giorni, sul quale sta indagando la Procura di Roma. Il responsabile del DEA Modini si è difeso, ha detto la donna in realtà non era in coma, c'è stato un errore di comunicazione tra medici. In ogni caso la situazione resta sempre critica, così come quella di altri pronto soccorso romani. Il ministro della Salute Balduzzi parla di situazione indegna, ha già inviato gli ispettori ministeriali al Policlinico Umberto I, si è detto pronto a mandare i carabinieri del NAS nelle aree d'emergenza più critiche di tutta Italia. Da Roma è tutto. E grazie anche ad Alessandra Schepisi. Nuove contestazioni oggi per Giorgio Napolitano. Nella seconda giornata di visita in Sardegna, il capo dello Stato è stato apostrofato all'arrivo all'auditorium comunale di Sassari da un coro buffone e lui ha risposto così dal palco. Va detto a chiunque abbia voce nella protesta, nel malcontento, naturalmente voce legittima purché non si sconfini nella illegalità e nella violenza, e qui mai è sufficiente la vigilanza e il richiamo. Vorrei dire, stiamo attenti, perché qui non si tratta di opporre a situazioni critiche formule ideologiche. Occorre porre su basi serie nuovi progetti di sviluppo per la Sardegna e porli appunto nel contesto europeo. Abbiamo attivato canali discreti anche con altri paesi per giungere a una soluzione del caso dei marò italiani arrestati in India. Parole poco fa del ministro degli esteri Giulio Terzi in un briefing alla Farnesina. È intervenuto intanto anche il contrammiraglio Pasquale Guerra, comandante del reggimento San Marco. Lo ha intervistato per noi Anna Marino. Le regole che devono seguire sono quelle per dissuadere fondamentalmente l'avvicinamento di queste imbarcazioni. La dissuasione avviene in maniera step by step a seconda delle distanze. Prima si cerca di chiamarli via radio e di farli allontanare, poi si fanno delle flashate, si mettono in atto, se del caso, anche dei cambi di velocità dell'unità, dopodiché vengono mostrate le armi, solo mostrate le armi. Questo via via che queste piccole imbarcazioni solitamente chiamate SCIFT, si avvicinano sempre più all'unità. In questo caso, diciamo, tutte queste regole sono state rispettate come da addestramento? Sì. Assolutamente sì, sono state attuate tutte queste forme di dissuasione. Le regole di comportamento prevedono che quando le distanze diventano ancora più strette si fanno dei cosiddetti warning shot, quindi dei colpi sparati in aria o in acqua decisamente distanti dalla imbarcazione per far capire comunque che c'è un nucleo armato a bordo di protezione. Comunque la mira non è mai all'uomo? Assolutamente no, a distanza anche dall'imbarcazione. Quindi se la nave viene attaccata, loro non possono comunque contrastare l'attacco? A meno che non ci sia un attacco con dei pirati che arrivano a bordo. Paura sul treno ad alta velocità Napoli-Roma alle 6.40 questa mattina. Il Freccia Rossa in transito sui binari della linea veloce avrebbe urtato nella sua corsa contro un carrello di servizio fermo sui binari in una galleria. Illesi i viaggiatori, ma molta paura. E ora la nuova bufera per la mancata candidatura di Roma alle Olimpiadi. Mario Pescante si è dimesso dalla carica di vicepresidente vicario del Comitato Olimpico Internazionale. Dario Ceccarelli. Sì, Anna, la scelta di Pescante arriva a pochi giorni dal no del Premier Monti alla candidatura italiana. Pescante ha detto nessuna polemica, ma ha aggiunto era una carica ormai incompatibile, perché lui si è speso molto per questa ovviamente per le Olimpiadi di Roma, e quindi riteneva che ormai mantenere questa carica con una decisione di questo tipo del governo non era possibile. Ricordiamo che Monti motivò con fermezza il no del governo dicendo che non era responsabile nelle attuali condizioni dell'Italia assumere un impegno di garanzia che mette a rischio i denari dei contribuenti, disse. Era un'affermazione molto forte che nessun precedente governo aveva mai fatto, e disse anche che era prematuro sganciare la cintura di sicurezza. Quindi è stata una decisione molto sofferta, tra l'altro all'interno del governo c'erano pareri diversi. Ricordiamo che il sindaco Alemanno, che proprio in quei giorni era sotto la contestazione della nevicata a Roma, era stato in bilico di dare o no le dimissioni. Lui poi disse no, nessuna dimissioni, farei un piacere ai miei oppositori, non le do. Quindi niente, siamo all'ultimo capitolo di questa vicenda. Bisogna anche dire che Pescante ha polemizzato, ma da gran signore, nel senso che lui ha detto che c'è amarezza per una grandissima occasione persa, il progetto era serio, ma capisce anche le ragioni del governo. Dice: è stata una decisione esclusivamente di carattere economico, non era il progetto in discussione, e quindi diciamo che è un distacco morbido che comunque lascia il segno. Che lascia il segno. Riunione in corso, sta dando le dimissioni, vedremo se davvero sarà l'ultima puntata di questa polemica. Grazie anche a Dario Ceccarelli. E un ultimo appuntamento per noi, perché oggi è anche l'ultimo giorno di carnevale. Oggi si chiude, tranne qualche eccezione, il carnevale, la festa più pazza dell'anno. Si chiude con una data particolare, cosiddetta palindroma, perché 21/02/2012 si può leggere allo stesso modo sia da sinistra verso destra che al contrario. Il carnevale si chiude, tranne qualche eccezione, per lasciare spazio domani, mercoledì delle ceneri, al primo giorno di quaresima. Oggi chiude lo storico carnevale di Venezia con la vogata del silenzio a mezzanotte, e poi chiude quello di Ivrea con l'ultima delle tre battaglie delle arance, in cui verrà eletta la squadra vincente degli arancieri. Eccezione a Milano, dove per via del rito ambrosiano è carnevale fino a sabato, e prosegue fino al 4 marzo anche il carnevale di Viareggio, che quanto a maschere fa sempre tendenza. Negli ultimi anni, infatti, al posto dei soliti Arlecchino, Balanzone, Pulcinella, hanno avuto sempre più spazio i volti nuovi della politica e della cronaca. Oggi si ride di più con le maschere di Capitan Codardo, dal soprannome del comandante della Costa Concordia Schettino, ma anche con quella della cancelliera tedesca Angela Merkel o del presidente francese Sarkozy, così come con quella del primo cittadino di Roma Alemanno vestito da Spalaneve. Tra i costumi più gettonati, quello da premier professore Mario Monti, gessato scuro e parrucca grigia, ma anche quello da Gheddafi, parrucca scura, tenuta militare e occhiali da sole. Infine, pare abbia avuto successo il costume da spread, tutta blu colore dell'Europa e fascia bianca che simula un grafico in caduta libera. In Brasile, a Rio de Janeiro, è iniziato ieri invece il carnevale più famoso del mondo. In strada, milioni di persone in festa e un incasso record che non va da crisi, superando di 8 milioni di euro quello dell'anno scorso. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E così concludiamo allora anche questa edizione di GR24, in regia Paolo Corleoni, da Anna Migliorati, ancora una buona giornata. GR24, come sempre, vi aspetta alle 14. GR24, il sole 24 ore. Direttore Fabio Tamburini.